Letture di Radio 24. In Corea da tempo è diffusa la pratica di importare le mogli dai paesi vicini, ma i risultati sono disastrosi. E così oggi gli aspiranti mariti sono obbligati ad imparare usi e costumi delle future mogli. È risaputo che in gran parte dell'Asia le donne sono meno numerose degli uomini e la prospera Corea del Sud non fa eccezione. Nulla di strano, verrebbe allora da dire. Se per anni migliaia di ragazze straniere sono state selezionate dalle agenzie matrimoniali e hanno sposato giovani sudcoreani. Nulla di strano. Veramente qualcosa di strano c'è, o c'era. Le autorità di Seul hanno scoperto che queste nozze combinate su internet finivano al 90% in brusche separazioni. Non solo. Dagli archivi della polizia è saltato fuori che nella grandissima maggioranza dei casi le mogli di importazione venivano maltrattate, picchiate, ridotte in schiavitù, in qualche caso persino uccise. Come se i denari versati alle agenzie, 10.000 euro pare, le trasformassero in merce, e per di più in merce avariata. Ragazze incapaci di capire e di farsi capire, portatrici di culture e costumi diversi, alcune, le vietnamite in particolare, addirittura orgogliose. Giubbotte allora. E poi tutti in coda per i divorzi. Ma finalmente la reazione c'è stata. Più controlli sulle agenzie, un programma di assistenza sociale per le nuove venute e soprattutto la creazione di un visto matrimoniale per gli aspiranti mariti, i quali devono frequentare un corso e superare vari esami sulla vita di coppia e sulle usanze altrui, se davvero vogliono far venire in Corea la moglie sognata sul web. Altri tempi, quando il problema era soltanto il visto di lei. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Franco Venturini «Vuoi una moglie straniera? Vai a lezioni di usi e costumi» da Io Donna del 2 luglio. Letture di Radio 24. L'incubo peggiore che possa capitare ad un essere umano è quello di finire in carcere per uno scambio di persona senza avere possibilità di difendersi. È quello che è successo ad un medico spagnolo in cella per 8 mesi perché scambiato per un narcotrafficante. Svegliarsi un giorno nella propria casa di professionista e marito e padre spagnolo e trovare la polizia che viene a prenderti per farti scontare in Italia 15 anni di carcere per traffico di droga, in forza alla sentenza definitiva di un processo al quale nemmeno avevi mai saputo d'essere stato sottoposto in 3 gradi di giudizio. Tu che urli, ma ci deve essere un errore, sarà uno scambio di persona, e loro che, con in mano il mandato di cattura europeo e lo sguardo da, dicono tutti così, ti estradano dalla Spagna in Italia. Nel carcere di Opera, condannato definitivo, ad impazzire in cella con la prospettiva di doverci restare 15 anni, come narcotrafficante colombiano, anche se tu sei spagnolo, operante in Italia, anche se non ci sei mai stato, soprannominato nelle intercettazioni El Gordo, cioè il ciccione e di carnagione olivastra, anche se tu sei magro e di pelle più chiara, con una figlia, anche se hai un figlio. 8 mesi in cella così, prima che l'errore, colossale nella sua genesi e assurdo nell'inerzia burocratica del suo imparabile rotolare, venga a galla e convinca ora la giustizia italiana a risarcirlo, si fa per dire, con 85.000 euro, a ristoro di 248 giorni di detenzione dal 17 aprile al 21 dicembre 2009. L'allora 42enne osteopata spagnolo non lo sa, ma in Italia il 6 aprile 2005 si parla anche di lui. Il GIP Maurizio Grigo, su richiesta del PM Mario Venditti, in un'indagine sul narcotraffico internazionale, emette ordini d'arresto per 134 persone, tra le quali appunto José Vincent Piera Ripoll, alias Gordo, alias Paolo Giorgio da Silva Sousa. Non lo saprà mai perché nessuno glielo dirà mai. Le notifiche, cruciali per il corretto instaurarsi di un giudizio, falliscono tutte, e così è da contumace e latitante che a sua insaputa va contro al treno processuale che lo condanna a 15 anni in tribunale il 17 gennaio 2007, in appello il 4 dicembre 2007 e in Cassazione il 29 aprile 2008. L'8 agosto partono il mandato di cattura europeo e l'estradizione dalla Spagna. Nel carcere di Opera è vicino ad ammattire. studia il processo che non ha conosciuto e legge che decisivo per identificarlo nel Gordo fu l'incrocio tra le intercettazioni dei Narcos e un controllo al casello di Carmagnola l'8 agosto 2000, quando i carabinieri di Monza identificarono, insieme a un italiano coinvolto nei traffici, MB, anche una persona che il passaporto indicava appunto Pierre Ripoll Vincent José, nato a Gandia, in Spagna, il 31-10-1963, poi riconosciuto al Motel Ritz di Varedo il 26 settembre, in un altro momento topico delle indagini antidroga. Solo che non è lui, ed è proprio a Opera, per un caso che ha il sapore del miracolo, che lo spagnolo scopre la ragione. Proprio lì c'è anche MB, in detenzione domiciliare, essendo diventato collaboratore di giustizia, e quando lo incontra, avvisa subito i carabinieri che lo spagnolo è lì per sbaglio. Era l'osteopata dal quale si era recata la moglie di MB e al quale costui aveva rubato il passaporto per poi consegnarlo al narcotrafficante El Gordo, col quale era in affari. Ma per gli avvocati Simone Briatore, Stefano Fratus e Antonino Gugliotta resta un'impresa perfino procurarsi quel passaporto per confrontare le foto. Dal carcere non riescono ad averlo e solo grazie a un carabiniere di Monza finalmente diventa possibile il paragone che parla da solo, per quanto diversa è la faccia del magro spagnolo da quella del corpulento e olivastro El Gordo che girava col suo passaporto. Non basta ancora. Il 17 dicembre 2009 la Corte di Appello gli nega la scarcerazione, ma per fortuna il Tribunale del Riesame il 21 dicembre 2009 accoglie il ricorso e libera lo spagnolo, che il 25 marzo 2010 vede la Cassazione finalmente annullare la condanna a 15 anni e aprire all'assoluzione in appello il 27 ottobre per non aver commesso il fatto, definitiva in Cassazione l'11 gennaio 2011. Anche i giudici milanesi Carfagna Maiello Nova, competenti sulla richiesta di ingiusta detenzione, appaiono basiti dalla storia, a giudicare da come decidono di alzare a 85.000 euro l'indennizzo che le tabelle di legge fermerebbero a 58.000. Neanche i soldi che lo spagnolo ha dovuto spendere in avvocati, 47.000, e ha perso in reddito, 16.000 nel 2008, nel 2009 e 2010. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Ferrarella, Il medico scambiato per un narcos in cella per 8 mesi, dal Corriere della Sera del 5 luglio. I pendolari lombardi che viaggiano con le Ferrovie Nord ci impiegano 1 ora e mezza per fare 50 chilometri, quando va bene. In Cina bastano 10 minuti. Certo, non si possono mettere a confronto il nuovo supertreno che collega Pechino a Shanghai e i treni vintage sui quali viaggiano i nostri pendolari, ma ci si potrebbe accontentare anche di una via di mezzo. In Cina non perdono tempo. Mentre da noi si è sbloccato il cantiere per far passare l'alta velocità nella Val di Susa, lì hanno appena inaugurato il nuovo treno proiettile Pechino-Shanghai. Giusto in tempo per festeggiare il 90° anniversario del Partito Comunista Cinese del 1 luglio. La nuova ferrovia viaggia a 350 km orari e ha più che dimezzato i tempi di percorrenza tra le due megalopoli cinesi. Ci volevano 10 ore di treno per coprire la tratta di 1380 km. Ora ne bastano poco meno di 5. Il biglietto per salire su uno dei 90 treni giornalieri costa dai 410 ai 1750 yuan, cioè tra 43 e 186 euro. Le previsioni sono di 80 milioni di passeggeri all'anno. Quest'opera mastodontica è costata 15 miliardi di euro ed è solo l'anteprima di un progetto che mira ad allargare la rete dell'alta velocità cinese dagli 8.380 chilometri attuali a 45.000 entro il 2020, per una rete che sarà la più estesa al mondo e collegherà ad alta velocità le città cinesi con Singapore, l'India e addirittura l'Iran. Avete ascoltato la lettura dell'articolo E la Cina vara il proiettile, da Vanity Fair del 13 luglio.